13-11 è la data degli attentati a Parigi, degli attentati che sono accaduti il 13 novembre 2015. Noi siamo partiti da questa data per raccontare storie di migrazione in tutta l'Europa, in sei città europee, nello specifico Bologna, Siviglia, Tolosa, Brescia, che è vicino in realtà a Lisbona, Amburgo e Riga. E perché abbiamo scelto questa data? Abbiamo scelto questa data perché la data per gli attentati di Parigi sono stati quello spartiacque per la creazione di nuovi muri, di nuovi nemici, identificati quasi sempre con il cittadino migrante. E noi avevamo la sfida di parlare di migranti, di raccontare sei storie di migranti. E quindi abbiamo voluto utilizzare gli attentati di Parigi come fil rouge che univa le sei storie, perché tutte e sei le storie accadono in quella data, ma al contempo noi raccontiamo sei storie di ordinaria umanità, ovvero i nostri protagonisti non si identificano per la loro appartenenza etnica, politica o religiosa, ma perché sono fondamentalmente degli esseri umani con dei sogni e dei desideri, e in più posso dire universali. Quale crede sia il messaggio sottostante che voi come Ellen Fante e lei come regista ha cercato di celare dentro queste storie? Nel mio caso il messaggio universale è che io ho diretto la storia di Siviglia, il figlio di Fatima, è che l'amore di una madre supera ogni cosa. Infine, quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrato durante le riprese e nei viaggi che vi hanno visto spostarvi per ben sei città diverse? Beh, sa, comunque noi avevamo poco tempo per girare, per realizzare la webserie, quindi da un punto di vista produttivo le produzioni sono partite tutte e sei insieme. Gli shooting si sono accavallati, nel senso che eravamo contemporaneamente a girare a Riga e a Siviglia, a Tolosa e a Lisbona, quindi avevamo costantemente due troupe in giro per l'Europa, e quindi anche questo è stato, devo dire, intenso, impegnativo. Al contempo poi consideri che, essendo un progetto europeo, noi questi corti saranno sottotitolati in sette lingue, ovvero in tutte le lingue del progetto, quindi adesso stiamo producendo i film in tutte le versioni. Ecco, questo è il senso di una grossa produzione europea. È stata veramente difficile, faticoso, però è stata anche una sfida che, quando la vinci, dici wow. Dunque, grazie a Carlotta Piccinini per essere stata con noi. Ricordiamo agli ascoltatori la prima nazionale della webserie 13-11 il 13 novembre a Lumiera alle ore 20. E dalla mattina su repubblica.it.